I compositori. C. Ascolta il testo. Gioacchino Rossini, 1792-1868, è stato uno dei maggiori rappresentanti del melodramma e ha composto opere per i più famosi teatri italiani ed europei. È l'autore di opere come Il barbiere di Siviglia, La Cenerentola, Semiramide, La gazza ladra e Guglielmo Tell. Rossini è morto a Parigi, ma ha lasciato i suoi beni alla sua città natale, Pesaro, dove ancora oggi c'è un importante conservatorio che porta il suo nome e che accoglie tanti nuovi talenti musicali. Giuseppe Verdi, 1813-1901, è forse il più rappresentativo del melodramma. L'opera verdiana è contemporanea al risveglio patriottico risorgimentale, quando l'Italia lottava per l'unificazione del paese. Sostenitori patriottici ed anti-austriaci interpretavano la scritta Viva Verdi come Viva Vittorio Emanuele, re d'Italia. Nel 1842 Verdi ha ottenuto il suo primo grande successo alla Scala di Milano con il Nabucco. È stato un vero trionfo, soprattutto perché il pubblico ha interpretato il coro del Va Pensiero come una sorta d'inno italiano contro l'occupazione austriaca. Oltre a quest'opera, altre opere importanti di Verdi sono Ernani, Rigoletto, Il Trovatore, La Traviata, La Forza del Destino, Aida, Otello e Falstaff. Altri compositori del melodramma sono Gaetano Donizetti, 1797-1848, con Lucia di Lammermoor e Don Pasquale, e Vincenzo Bellini, 1801-1835, con La Sonnambula e La Norma. Con Pietro Mascagni, 1863-1945, c'è una nuova svolta, il melodramma verista. Questo tipo d'opera si basa sulla rappresentazione fedele della realtà e delle classi popolari. Mascagni ha raggiunto il successo con La Cavalleria Rusticana, un atto unico basato su una novella di Giovanni Verga, uno degli scrittori veristi più importanti. A cavallo tra l'Ottocento e il Novecento troviamo un altro grande compositore, Giacomo Puccini, 1858-1924, che compone le sue opere migliori a Torre del Lago, vicino a Viareggio. Fra queste opere spiccano Manon Lescaut, La Bohème, Tosca, Madama Butterfly e Turandot.